È qui e là. È qui e là. Da dove viene non si sa. Ma che razza di roba è? Certo, nell'aria si vede che c'è una fata fatta a pera da prendersi così com'era. È una maligna. È una musona. Vola nell'aria l'astuta volpona. Vola sui meli la grassa perona. E chi le dà il diritto di volare sul frutteto come una cornacchia, coi geloni alle ginocchia?